Consapevolmente. Consapevoli. Ora che il mio estetico punto di vista sta modificando le cose, mi chiedo perché tu sia altrove. E sento che cola come olio su tela l'esigenza di sentirmi artista. Senza una musa non scrivo più. Non voglio confonderti fra i tanti rimpianti, e soffro se ancora piangi. Adesso consapevolmente mi sento più fragile, partecipe della memoria che mi hai lasciato. Tu non smetto di picchiare la testa sul muro per quello che ho perso per strada. L'orgoglio era meglio tenerlo a bada. E non voglio perderti adesso che splendi. Rimango ad assecondarti. Consapevolmente mi sento più fragile, partecipe della memoria che mi hai lasciato. Consapevolmente divento sensibile, considero la nostra storia e meglio l'hai dato tu. E devo essere democratico, non ho più l'equilibrio e il senso pratico, ma la sobrietà ancor peggio della paranoia, maledetta mi cinge come il cappio d'un boia. E poi a me che mi importa, tanto fuori piove, perfino Gesù Cristo a volte stava male. Io voglio essere libero e ricominciare, ricominciare da me, ricominciare da te. Quarta e ultima parte di Rock Legends, stiamo sempre ascoltando i brani del disco Rabbia e Sole dei Lore. Come si chiamava questa canzone? Questa era Consapevole ed è stato un pezzo abbastanza travagliato per la storia dei Lore, perché è venuto fuori qualche anno fa ed era anche uno dei brani con i quali avevamo provato la scalata sanremese. E ecco perché me lo ricordavo. Esatto, questo. Esatto. Non era in primo piano nell'EP, ma era proprio in quel periodo del 2009, sì, mi sembra. Più o meno, sì. E non essendo riusciti nel nostro intento, abbiamo pensato di smontarlo e rimontarlo per l'occasione, anche perché è un pezzo nel quale abbiamo sempre creduto abbastanza. Dopo l'uscita del disco, quali sono ora le vostre prossime mosse? Sicuramente suonare tanto, infatti siamo. Con l'agenzia che ci sta seguendo cominciamo bene, insomma ci stanno piazzando un po' dappertutto, le date sono in aumento continuo, tutte reperibili su internet, se tu scrivi L'R su Google i primi quattro siti che si aprono sono tutti riferimenti ufficiali del gruppo, e comunque sul sito www.l-or.it che è il nostro sito ufficiale ci sono tutte. Quindi sicuramente suonare moltissimo, anche perché due anni, un anno e mezzo fermi, siamo un po' come le tigri in gabbia. Esatto. E abbiamo dovete bisogno, liberare. Esatto, abbiamo bisogno di sfociare tanta adrenalina sul palcoscenico, quindi sicuramente questo. Se poi salta fuori qualcosa di importante, noi siamo sempre pronti e ci faremo trovare pronti. La prossima song. La prossima canzone si intitola Sfiorami. Ed è una ballad, forse la più intensa del disco. La mia notte comincia qua, c'è una luce perfetta, e ti scorgo nell'oscurità, la mia voce si spezza. Non lo senti che sei già mia, non ho fatto abbastanza, questo incanto ci porterà verso i mari d'Irlanda. Io ci sarò, se ci sarà. Get to spend your time. per sempre tua. E siamo in chiusura, vi ricordo i contatti per richiedere la vostra Rock Legends preferita e per le vostre segnalazioni scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo anche il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends. Un grazie ad Emanuele Deilor per la partecipazione e un augurio come sempre di un futuro ritorno. Grazie a voi. A te la parola per i contatti web ed email per info sul CD ed un calendario di live di prossima programmazione. Allora, partiamo da... il 23, la prossima data ufficiale a Mantova, siamo al Circolo Arcitom. Il 24 presentiamo il disco in Feltrinelli a Verona, in centro, la nuovissima sede di Feltrinelli che è in via Quattro Spadre, dove c'era il cinema Corallo una volta, quello storico. E poi su aprile abbiamo due o tre date, sono tutte pubblicate sul sito. Siamo a Milano, Brescia e penso Bergamo, non so se mi ricordo esattamente. Ogni cosa si può trovare, abbiamo detto, sul nostro sito ufficiale, che è www.l-or.it, che sarebbe il meno l-or.it. Da lì ci sono i rimandi classici a vari social network, quindi gruppo Lore su Facebook, MySpace, Reverb Nation e altre cose. E poi cos'altro? Il CD, il CD lo si trova in tutti i negozi di dischi, distribuzione EMI, quindi insomma è anche abbastanza facile trovarlo. Anche i megastore, Media World, Comet, insomma tutti quei posti giganteschi lì. E iTunes, tutte le piattaforme digitali, anche lì basta scrivere Lore Rabbia e Sole, L'R Rabbia e Sole su Google e si aprono i vari link al nostro disco in acquisto. Brano di chiusura di questa puntata? Direi che ci sta bene la canzone che chiude la scaletta del disco, e quindi Buonanotte Mimì, che è una canzone che noi abbiamo dedicato alla compianta Mia Martini e che pensiamo tuttora sia un artista che manca tantissimo nel panorama nazionale italiano, quindi chiudiamo così, silenziosamente. Jeanluc ed Emanuele Deilor si congedano, noi ci risentiamo venerdì prossimo quando saranno ospiti gli Hypnotetical, formazione prog metal vicentina che presenterà il disco Dead World. Ciao! Chissà come stai, se fuori piove o c'è il sole, se tante stelle ti guardano e non rispondono. Chissà come stai, se paghi ancora le scelte fatte,